La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale qui su Radio 24, settimana dominata dall'uscita in sala della nuova avventura di Spider-Man, ma non solo. E allora cominciamo subito a entrare nel vivo dei contenuti di questa trasmissione con i nostri titoli di testa. Dopo tre avventure targate Sam Raimi, l'Uomo Ragno torna nei cinema di tutto il mondo. The Amazing Spider-Man, firmato da Mark Webb, è un reboot, una ripartenza della storia. Con un Peter Parker più umano e meno supereroe, più fedele al personaggio del fumetto, ben incarnato dallo stralunato Andrew Garfield. Torna in sala un grande del cinema contemporaneo. Dopo averci regalato film immortali come L'attimo fuggente, Master and Commander e Truman Show, Peter Weir firma The Way Back, diario di fuga da un lager stalinista siberiano, con Ed Harris e Colin Farrell. Metti una sera a cena tra amici. L'assalto delle commedie francesi al botteghino italiano prosegue con Le Prénom, cena tra amici. In un clima un po' carnage, un po' cena dei cretini, un drappello di amici si scanna sulla scelta del nome da dare al bambino di uno di loro. Grande successo in Francia, con oltre 3 milioni di spettatori. E a Riccione si premia la commedia italiana, assegnati i Cinechak d'oro per gli attori che hanno dato un contributo alle commedie di ieri e di oggi. Fra i premiati, Christian De Sica e Marco Giallini. Ascoltiamoli alla Rosa Purpurea, insieme alla padrona di casa, Piera De Tassis, direttore di Chak. Le atmosfere della colonna sonora di Spider-Man, anzi di The Amazing Spider-Man, perché dobbiamo dirla com'è, il nuovo film con l'Uomo Ragno protagonista, come abbiamo sentito nei titoli, dopo tre avventure targate Sam Raimi, è già arrivato il momento, evidentemente per l'industria cinematografica americana, che non si lascia scappare occasioni per far soldi, per un reboot, per una ripartenza, una nuova versione, diciamo così, di Spider-Man. E per questa nuova versione sono stati chiamati un nuovo regista come Mark Webb e un nuovo cast che punta soprattutto su Andrew Garfield nei panni di Peter Parker e su Emma Stone in quelli della bella Gwen Stacy, sua spasimante. Cos'è un reboot? Quando una storia è finita, i sequel sono finiti, hai raccontato tutto, piuttosto che andare avanti a fare aria fritta, sostanzialmente ridisegni il personaggio. E questo appunto il caso di questo Amazing Spider-Man, dove si riracconta la stessa storia che già conosciamo, che abbiamo già conosciuto. Fare un reboot significa però prendere anche le distanze da quello che è stato fatto prima. In questo caso Mark Webb lo fa per esempio disegnando un uomo ragno più umano, disegnandolo un po' più ribelle, un po' meno vessato, un po' meno impaurito anche dalle sue trasformazioni fisiche che lo portano ad avere i superpoteri che conosciamo, anzi quasi divertito dalla possibilità di maneggiare queste ragnatele che arrivano dai polsi o tutti gli armamentari tipici dell'uomo ragno, per esempio un uomo ragno che non stenta a togliersi la maschera in certe situazioni durante il film, cosa che invece è assolutamente tabù, come ricorderete nel fumetto. Eppure fisicamente questo forse è l'uomo ragno più vicino, più fedele a quello del fumetto originale, perché per esempio ha un costume veramente di calzamaglia e non una sorta di corazza come era stato nel caso dei film di Sam Raimi. Insomma è un uomo ragno che sentiamo un po' più vicino. La storia prende le mosse molto indietro, molto al di là nel tempo, all'età di 7 anni, quando Peter Parker, e qui lo scopriamo cosa succede, figlio di scienziati, rimane solo affidato allo zio Ben, tra l'altro Martin Sheen, protagonista del Cammino per Santiago nelle sale italiane in questo periodo, curioso crossover. Dicevamo, Peter Parker viene affidato allo zio e alla zia May perché i genitori sono braccati da qualcuno che è molto cattivo, questo lo capiamo, ma che non vediamo. Genitori che Peter Parker non vedrà più. Crescendo, Peter Parker diventa un promettente studente di scienze, capisce che c'è qualcosa che potrebbe cambiare la struttura dell'uomo, e da lì parte la sua passione per la ricerca, appunto, che finisce in maniera quasi consapevole per farlo arrivare in contatto con il ragno che lo pungerà, il ragno che cambierà la sua vita e possiamo dire anche la storia dei fumetti. Anch'io desidero aggiustarmi. Voglio creare un mondo senza debolezze. Nessuno vuole fare un'ipotesi su come? Sì. Cellule staminali? Promettenti, ma la soluzione a cui penso io è più radicale. Nessuno? Genetica degli incroci tra specie. Una persona si ammala di Parkinson quando le cellule cerebrali che producono dopamina cominciano a morire. Però un pesce zebra ha la capacità di rigenerare le cellule a comando. Se lei riuscisse a dare questa capacità alla donna di cui parlava, beh, riuscirebbe a curarsi da sola. Sì, basta che ignori le branchie che ha sul collo. Tu sei? È uno dei più brillanti allievi di Midtown Science. Sul serio? Mm-hmm. È il secondo della sua classe. Ah. Secondo? Sì. Ne sei proprio sicura? Piuttosto sicura. E allora, cosa resta da dire? Intanto che il cattivo di turno è Lizard, lucertolone che abbiamo conosciuto appunto nei fumetti, questa volta tra i tanti avversari dell'Uomo Ragno, è quello scelto per questa avventura. Un Uomo Ragno che da quel momento in poi prende consapevolezza delle sue capacità, ovviamente salva il mondo, inutile dirlo, in più di un'occasione, e soprattutto farà una scoperta che non vi sveliamo, e che però lo metterà proprio di fronte a quella che era la ricerca che suo padre stava portando avanti, la ricerca per la quale probabilmente suo padre è morto. Non era facile il compito che si poneva in mano a Mark Webb, non era facile a così breve distanza dai film di Sam Raimi, che hanno avuto un successo e soddisfazione in tutto il mondo, fare un Uomo Ragno che rimanesse. Il tentativo, benché forse non del tutto necessario, è comunque abbastanza riuscito. È uno Spider-Man questo che ha un suo clima, una sua situazione che lo spettatore percepisce, e che percepisce assolutamente diversa da quella dei film precedenti. Diciamo che Mark Webb, che aveva firmato una bella commedia sentimentale che si chiamava 500 giorni insieme, forse la ricorderete, metta un pezzettino di quel clima, un pezzettino di quel conoscersi, di quel volersi da parte dei due giovani protagonisti anche in questo Uomo Ragno, umanizzandolo appunto un po' di più. Andiamolo a sentire allora Andrew Garfield, protagonista di questo nuovo Uomo Ragno, proprio confrontarsi con il ruolo. I suddenly felt the pressure of it. Ho sentito subito la pressione della cosa. Mentre prima pensi solo a recitare, poi ti rendi conto che un sacco di gente vedrà questo film e che molte persone hanno delle aspettative su come dovresti farlo. E allora ti prende la paura, perché senti che hai un grosso peso sulle spalle e devi accettare questa responsabilità, andare avanti e cercare di dare il meglio che puoi. E questo era The Amazing Spider-Man. Fra poco, dopo la viabilità, torniamo insieme e parliamo del ritorno di un grande regista come Peter Weir con The Way Back. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea, seconda parte. Abbiamo parlato dell'Uomo Ragno, parliamo di un grande del grande schermo, di un grande regista, di un grande nome come quello di Peter Weir, che torna sui grandi schermi d'Italia, l'autore di film che sono rimasti davvero alla storia, per una volta possiamo dirlo senza tema di smentita, come Master and Commander, The Truman Show, L'attimo fuggente, Witness, Il testimone. Insomma, Peter Weir ha lasciato una traccia davvero importante nella cinematografia contemporanea, e torna con un film che si chiama The Way Back, ed è un film che affronta un tema, lo affronta con un taglio diciamo anche avventuroso, ma affronta un tema e un periodo, un'epoca poco frequentata, soprattutto dal cinema occidentale, che ha raccontato tante volte fughe da lager nazisti, fughe o situazioni belliche in Vietnam piuttosto che in altre situazioni, pochissimo i gulag. E questo è proprio un film su questo tema. 1940, Polonia occupata dalle truppe sovietiche, un soldato denunciato come spia è spedito in un gulag in Siberia. Da lì scatterà un piano per cercare di scappare. E questo è The Way Back. Noi ascoltiamo una clip in originale, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Sign the confession. Kindness can kill you here. If you are serious about making a run for it, hey, yeah! I'm with you. Ecco, dicevamo i suoni originali del trailer in inglese, adesso scopriremo perché. Voglio dirvi che sono 9 anni che non arrivava un film di Peter Weir sul grande schermo, appunto da Master and Commander. Adesso Peter Weir torna, e torna evidentemente con poca fiducia anche da parte della distribuzione, in questo caso 01, perché addirittura non è stato fatto un trailer italiano, ecco perché vi abbiamo fatto ascoltare quello originale. Un'uscita il 7 luglio senza un appoggio evidentemente di promozione importante per un film di Peter Weir, un filmone alla Peter Weir, forse è qualcosa che un po' ci dice che non c'è grande fiducia. Eppure il film c'è, vero Boris Sollazzo? Ma assolutamente sì, è una scelta a mio parere assolutamente folle quella della distribuzione, sia come tempi, perché il 7 luglio, se non sei Spider-Man, francamente è un suicidio. Comunque di certo non è una spinta in favore della buona riuscita del film al botteghino, e poi perché il film è molto buono, tra l'altro interessante, perché come dicevi tu, centrando perfettamente l'originalità del film, noi abbiamo visto tutte le guerre sostanzialmente e tutte le persecuzioni al cinema. Però devo dire che i crimini del comunismo, o comunque i crimini di una certa parte del mondo, e in questo caso parliamo di un gulag siberiano durante la Seconda Guerra Mondiale, quelli non l'avevamo sostanzialmente visti. Può essere che forse parte del cinema russo se ne sia occupato, ma sicuramente non c'era stato, come invece è accaduto per altre guerre, per altre situazioni, un grande cineasta straniero che era entrato in quei confini e l'aveva raccontati con questa forza, con questa potenza, anche con questa epicità, perché Weir non rinuncia, seppur dopo 9 anni, a raccontare una grande storia con un grande cast, da Jim Sturgess a Colin Farrell, passando per Saoirse Ronan. E il film secondo me vale assolutamente, è un film che ha il suo forse maggior pregio e anche difetto, quello di essere fin troppo classico, ecco. Weir rimane, come dire, legato a una certa estetica che forse è un po' passata, che però francamente lui sa maneggiare con una tale destrezza e con una tale abilità e con un tale talento che, a mio parere, nonostante la lunghezza, il film si fa guardare con grande piacere. Quindi rimane, dopo averlo visto, ancora più inspiegabile la scelta sia addirittura di non tradurre il trailer sia di farlo uscire il 7 di luglio. Esatto. Intanto, se il film poi lo devi far vedere, tanto ne vale almeno farlo vedere con un attimo di spinta promozionale. Allora, questo era The Way Back. Tu stai lì, Boris, perché fra poco dobbiamo parlare di un altro paio di film. Prima però cominciamo a giocare con il nostro DVD game. Come sempre, 3 tracce di un film misterioso, fino a quando voi non lo indovinate, dicendoci tutto al nostro indirizzo di posta elettronica. Ascoltiamo la prima. Senti, per un paio di giorni non ci sentiremo. Volevo avvertirti di questo. Ciao. Ok, ci vediamo. Ah no, senti, aspetta un momento, scusa. Ti dice niente questo nome? Villa Rapidi. Vi dice niente questo nome? Se vi dice qualcosa, scriveteci il titolo di questo film alla Rosa Purpurea @radio24.it insieme al vostro indirizzo di corrispondenza, per poter poi eventualmente spedire il Blu-ray di questo film al più bravo e veloce dei nostri ascoltatori del sabato e della domenica più tardi. Ci saranno altre 2 tracce. Dicevamo, altri due film ci aspettano. Cominciamo subito a sentire un breve tratto dal trailer di Quell'idiota di nostro fratello. Mi piace pensare che se metti a disposizione la tua fiducia senza aspettarti niente in cambio, se dai fiducia alle persone... Scusa, Mary Reggie? Loro vorranno esserne all'altezza. Penso che sia proprio un bel modo di vivere la vita. Ero così depresso che mi sono fatto una canna col ragazzo che abita di fronte a me. Ok, io non ho sentito niente. Ho detto che ero così depresso che mi sono fatto una canna col ragazzo che... Non puoi dire a un poliziotto che ti sei fatto. E dai! E insomma, filosofia da una parte e ingenuità dall'altra. C'era un film irlandese di qualche anno fa che si chiamava Svegliati Ned. Ned, che è il protagonista anche di questo film, Quell'idiota di nostro fratello, sembra essersi non ancora svegliato, almeno per il momento. Una commedia di Jesse Perez, un film che racconta un personaggio un po' Candide, un po' figlio anche dei suoi tempi. Boris? Sì, assolutamente. Devo dire che il film mantiene quello che promette fin dal titolo italiano, insomma, è una commedia leggera, un po' buonista, di sicuro divertente, ha il pregio di avere un ottimo cast, secondo me. C'è un attore che viene sottovalutato nei nostri confini, ma che a mio parere è molto bravo come Paul Rudd, e poi dall'altra parte ci sono le sue tre sorelle, Emily Mortimer, Elizabeth Banks e Zoe Deschanel, che insomma basterebbero da sole a valere il prezzo del biglietto. La storia, come l'avete più o meno intuita dal trailer, che per fortuna fa intuire lo spirito del film ma non ti racconta tutto come spesso succede dai trailer, è di questo ragazzo molto ingenuo, molto buono, con una passione particolare per insomma una sostanza psicotropa leggera, che pensa bene per altruismo di offrirla a un agente. Voi direte, un agente in borghese, quindi è stato solo un tragico errore. No, l'agente era in divisa. E questo già vi fa capire chi è il personaggio in questione. Esce di galera, si ritrova senza ragazza e le tre sorelle se lo palleggiano. Nessuno vuole questo strano personaggio. Sono tutte inserite in una società borghese. Lui alla fine è un hippie, è uno che dice sempre la verità, è uno che crea molti problemi dicendo quello che la gente pensa e non tenendoselo per sé e dicendo soprattutto quello che lui pensa. Fa strane amicizie come una grande diva, e tanti altri, alla fine interviene nella vita della sua famiglia, prima demolendo varie situazioni e poi rimettendole insieme, perché sostanzialmente insegna che la verità alla fine paga, magari con qualche sofferenza. Forse il finale è troppo buonista, però il film è divertente, scalda il cuore e a mio parere in un'estate così vale assolutamente il prezzo del biglietto, e vale soprattutto quello che mantiene un film carino, anche se è una definizione che non amo molto, ma che in questo caso, secondo me, rende bene l'idea di quello che andrete a vedere. E vediamo se sarà così anche per il prossimo film di cui vogliamo parlarvi, Cena tra amici. Abbiamo detto nei nostri titoli di testa l'ennesimo assalto della commedia francese popolare al botteghino italiano. Questo è stato un anno in cui questo fenomeno si è davvero presentato in tutta la sua grandezza. In Francia, ormai da un paio d'anni, le commedie popolari sono ritornate non solo a farsi vedere sul grande schermo, perché erano un po' un genere in disuso, ma soprattutto a portare milioni e milioni di spettatori francesi al cinema. Vi faccio un piccolo paragone: pensate che questo film di cui vi parliamo, Cena tra amici, ha fatto in Francia qualcosa come 3 milioni e 200 mila spettatori, vuol dire biglietti staccati, vuol dire un incasso più o meno di 32-33 milioni di euro, cioè un incasso che in Italia sarebbe il maggior incasso della stagione. Ecco, ed è una delle tante ormai commedie francesi a base, pensate anche a Chef, che è fuori in questi giorni con Jean Reno eccetera, a base appunto di calembour, di una situazione di sceneggiatura molto molto parlata, tipicamente francese. Qui siamo in una situazione che abbiamo detto nei titoli, un po' Carnage, un po' Cena dei cretini, ma un rappello di amici che si trova a casa di uno di loro, e a un certo punto la discussione cade sul nome da dare al nascituro appunto di uno di questi amici, e lì i nostri cominciano a scannarsi. Sentiamo la clip. La vita è dura a volte. Avete avuto una giornata faticosa, appuntamenti su appuntamenti, avete passato ore sui mezzi pubblici. Ah, che bello, una serata tra amici. Pier, ma quando mettete l'ascensore? È l'unica donna al mondo che abbia cominciato a fumare durante la gravidanza. Ma non fa bene al bambino. Glielo direi quando arriva. Può restare piccolino. Farà il fantino. Allora, ce l'avete qualche idea per il nome? Abbiamo già un'idea precisa. Oh. Ce la puoi dire? Indovinate. Bisogna pensare ai suoi interessi, ai suoi gusti, a quello che gli piace. Peccato che Rolex non sia un nome. Che idiota. Bartolomé? No. Baltasar? No. Dacci un indizio. No. Dai, ti prego, non so, un indizio. No. Antoine, più originale. Albator? Fuori. Allora, dai, qual è? Dai, sul serio, qual è il nome? Allora, vi è piaciuto? Voi due siete completamente impazziti! Ecco, come capite, la serata a quel punto cambia. Lapidario, Boris Sollazzo, io l'unica cosa che ho notato in questo film, che forse come altri film francesi, non so quanto sia colpa dell'adattamento, del doppiaggio, tendono a mettersi un po' troppo in posa, cioè la prolissità diventa quasi accademia, c'è un parlare per il parlare tante volte che forse potrebbe essere un po' ridimensionato. Detto questo, insomma, solitamente siamo di fronte a situazioni anche simpatiche e gradevoli. È così anche in questo caso? Ma direi di sì, non vorrei che sembrasse che io ce l'ho col cinema francese, perché anzi provo molta ammirazione per un cinema che riesce a portare al successo film medi e non mediocri, medi semplicemente, cosa che da noi non succede. E di sicuro qui c'è un'idea di sceneggiatura, un'idea di soggetto molto divertente, dei dialoghi abbastanza felici, certo non è nulla di eccezionale, è davvero qualcosa che potremmo fare noi o magari potremmo comprare dei film anche un po' migliori. Il punto è che noi abbiamo questa dramma della moda, del trend. Adesso funzionano, come dicevi tu, i film francesi, le commedie sofisticate, le commedie verbose di situazione, un po' borghesi, e quindi ne compriamo sostanzialmente una alla settimana e ne decretiamo più o meno il successo. Certo che in Francia hanno successo e questo fa capire la differenza tra i nostri mercati. È un film che, se vi piace il genere, se vi piace quel cinema francese molto leggero, molto che cerca le arguzie, che si mette in posa, vale il prezzo del biglietto. Per gli altri non lo consiglio molto. Allora Boris, grazie, rimani con noi, fra poco parliamo del ritorno al cinema di un capolavoro di Quentin Tarantino, ovvero Le Iene. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Prima di dedicarci ai Cinechak d'oro, dobbiamo parlare di un grande film, il film che ha rivelato al mondo Quentin Tarantino, che torna in sala, anzi è già tornato in sala alla fine di giugno. È stato un esperimento per un paio di giorni, è andato talmente bene che la distribuzione lo ha ributtato fuori in un numero di sale più ampio, e adesso invece con una tenitura un po' più lunga. Stiamo parlando appunto delle Iene di Quentin Tarantino. 20 anni fa la sua prima presentazione, io personalmente lo vidi al Festival di Locarno e scoprimmo questo autore davvero dirompente con il suo cinema così vicino alla letteratura pulp americana. Da lì in poi sarebbe stato tutto un crescendo di straordinari capolavori. E allora andiamo a sentire questa clip un po' lunga, ma vi assicuro divertentissima, che riassume un po' il cinema e un po' anche la filosofia di Tarantino. Sentiamo. Ok, tirate fuori un po' di grana per la signorina. Andiamo, tira fuori un verdone. Ah, non do mance. Non dai mance? No, non ci credo. Non credi nelle mance? Ma non mi dire, allora perché non se ne va? No, fammi capire, allora tu non dai mai la mance? No, perché la società mi dice di farlo. Cioè, la mancia la lascio se proprio se la meritano, se proprio si impegnano al massimo, lascio un piccolo extra, ma lasciarla così solo perché si deve... Voglio dire, non fanno nient'altro che il loro lavoro. Sì, ma questa è stata gentile. Sì, d'accordo, ma che ha fatto di speciale? Io le darei più del 12%. Insomma, ho ordinato il caffè, giusto? Siamo qui da un sacco di tempo e mi ha riempito la tazza solo 3 volte. Io voglio che me la riempiano almeno 6 volte. Scusa tanto, Mr. Pink, ma l'ultima cosa di cui hai bisogno ora è un altro caffè. Santi Dio, ma queste ragazze mica se la passano male. Prendono il minimo sindacale. Anch'io una volta ho lavorato al minimo sindacale, ma non ero tra i fortunati che la società considera degni di mancia. Te ne freghi che contino sulle mance per vivere? Lo sai cos'è questo? È il più piccolo violino del mondo che suona solo per le cameriere. Tu non sai nemmeno di che cosa stai parlando. È un mestiere duro, il loro. Lo è anche lavorare da McDonald's, ma lì non lasci la mancia, vero? E perché no? Non servono anche loro da mangiare. Ma la società dice: a questi devi lasciare la mancia, a questi altri niente mancia. Fare la cameriera è il mestiere più diffuso tra le ragazze che non hanno titoli di studio in questo paese. È il lavoro che praticamente ogni donna può fare e camparci anche. E questo solo per via delle mance. Signori, la ricreazione è finita. Un momento. Chi non ha messo il suo dollaro? Mr. Pink. Mr. Pink? E come mai? Non lascia mance. Non lascia mance? Che vuol dire non lasci mance? Non ci credi. Sta zitto. Come sarebbe a dire che non ci credi? Te l'ho pagata io la colazione. D'accordo, solo perché hai pagato tu il pranzo, ma normalmente non lo farei. Me ne sbatto di quello che faresti normalmente. Adesso sgancio un dollaro come tutti gli altri. Grazie. E beh, insomma, siamo di fronte proprio a grande cinema e alla summa di Tarantino sceneggiatore. C'è dentro killer spietati che parlano appunto di tutta la filosofia della mancia, ti impegni, non ti impegni. Tanto lo condivido abbastanza il parere di Mr. Pink. Boris, torna in sala in questo film che ha aperto la strada internazionale, diciamo, a Quentin Tarantino prima del trionfo di Pulp Fiction a Cannes. Un motivo, dici un motivo per cui rivederlo oggi o vederlo per la prima volta, se si è magari un po' più giovani? Beh, il motivo è semplice. Intanto sfido io chiunque a non dire che non vi ha migliorato la giornata il pezzo scelto da Franco. E il secondo è che questo film ha cambiato un po' il modo di vedere il cinema negli ultimi 20 anni. È arrivato questo ragazzaccio pieno di cinema di serie B, cresciuto con il cinema non dei grandi ma quello degli artigiani, l'ha messo insieme, è in uno dei momenti più felici della sua carriera di sceneggiatore oltre che di regista, ha uno dei finali migliori del mondo, c'è Edward Bunker che compare, più di così non so che dirvi, è un film veramente forse il più felice di Tarantino insieme a Jackie Brown e quindi andatelo a vedere perché l'occasione di vederlo al cinema per chi non aveva l'età per andarci nel 92, io per fortuna ce l'avevo, in un'occasione d'oro, la stessa che si è proposta un paio di settimane fa con The Blues Brothers, non perdetela. E vale la pena ricordare che il film esce in versione integrale, senza tagli, senza i tagli della versione vietata ai minori di 14 anni, per cui vietato ai minori di 18. Quindi, insomma, se avete 17 anni non ci potete andare, però da 18 in su andateci, perché è una visione che sul grande schermo sostanzialmente si è vista praticamente solo nei festival. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te, alla prossima settimana. Ebbene, allora andiamo avanti con il nostro programma, seconda traccia del film misterioso di oggi. Per mezzo svanito sbaglia sempre destinatario e qualche volta, beh, è imbarazzante. Spesso mi arriva la roba destinata a quello zoppo, sai, Lampanti, quello che abita qui accanto. E sono riviste pornografiche con donne nude attorcigliate in certe pose incredibili. La Rosa Purpura @radio24.it, che film è? Diteci il titolo, diteci il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Oh, bene, adesso apriamo uno spazio che voglio dedicare a un premio che è stato consegnato proprio la scorsa settimana a Riccione nell'ambito di Cine, le giornate professionali di cinema estive di Riccione, una grande occasione per vedere in anteprima listini, trailer dei film della prossima stagione. Anzi, abbiamo anche fatto tanto materiale che vi daremo, poi centellineremo durante l'estate con interviste ai grandi protagonisti della prossima stagione cinematografica, che ci racconteranno in anteprima le novità dei loro film. Però è stata anche, dicevo, l'occasione per assegnare il Cine Chuck d'Oro. Ora, il Chuck d'Oro è un premio che la rivista Chuck, diretta da Piera De Tassis, assegna già di suo a Roma. Questa volta però l'idea era quella di premiare la commedia italiana, perché, come abbiamo detto per quella francese, comunque anche la commedia italiana negli ultimi anni ha saputo portare milioni di spettatori al cinema, ha ritrovato un feeling con il suo pubblico, meno cinepanettone, più commedia, sociale, potremmo dire, che racconta, pensate, Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud, ma non solo, Immaturi, che racconta una generazione, che racconta i conflitti in maniera spiritosa e col sorriso sulle labbra. Ebbene, perché non premiare questo ritorno della commedia e anche dare un occhio a chi questo ritorno ha permesso con i suoi film di costruirlo? Allora io comincerei subito con l'ascoltare La padrona di casa, il direttore di Chuck, Piera De Tassis, sul senso di questo nuovo premio. una cosa del genere dominante in Italia, che ha segnato e anche formato il carattere italiano, secondo me, quantomeno l'ha sempre decifrato, ed è la commedia. E è un premio, è il numero zero di questo premio, quindi sono pochi riconoscimenti, tranquilli, al momento sono pochi, però ci consente di riconoscere una categoria e un genere che in generale poi non vediamo tanto premiato nei premi tradizionali, perché poi quando si va a votare, anche se hai molto riso in sala, non so perché la penna o il computer cadono su categorie più serie, insomma più d'autore. Cioè, invece noi chiediamo che ci sia e ci debba essere una commedia d'autore, è una commedia che punta più in alto di quello a cui si punta solitamente. Mi fa molto piacere il premio a Christian De Sica, trovo che sia veramente un attore che forse aveva bisogno anche di qualcos'altro nella sua carriera, e forse questo premio glielo dice, anche se quel qualcos'altro non c'è stato. Io sono fermamente convinta che De Sica avrebbe meritato molto di più. Io non so dire se sia il mercato, se sia il fatto che entri in un ruolo, forse magari sue scelte eccetera. Però devo anche dirci una cosa, che il De Sica regista, per esempio, in almeno un paio di casi, Uomini e Tre, ha fatto delle scelte, almeno dal punto di vista del contenuto dei temi, perfin più coraggiose di quello che è poi il cinema che ha interpretato. Credo che insomma sia un attore che poi con la maturità ha ancora di più da dare. E allora andiamo a sentirlo, Christian De Sica, su questa terrazza ventosa del Palazzo dei Congressi di Riccione. Come avete sentito, il vento non ci dava tregua, però insomma sentiamo Christian De Sica proprio che accoglie questa sorta di premio, di riconoscimento un po' alla carriera e alle sue commedie. Devo dire grazie a Piera De Tarsis che ha istituito questo ciak alla commedia, che di solito è un genere sempre più trattato dall'intelligenza, dalla critica, no? Perché non fa parte del cinema d'autore, ma poi si è dimostrato negli anni, io poi ne sono per una conferma, sono 30 anni che faccio la farsa, che faccio la commedia, che è l'ossatura, è la colonna portante del nostro cinema, anche perché noi è dalla commedia dell'arte che siamo forti in quello, abbiamo meno Robert De Niro e più Totò. Senti, invece riguardo al côté drammatico della tua carriera, recentemente rilanciato anche, no? E forse poco frequentato rispetto a quelle che sono le tue potenzialità, c'è qualcosa che bolle in pentola? O... Beh, da tanti anni c'è questo film su mio padre e mia madre, che è La Porta del Cielo, speriamo dopo 10 anni che ci sto provando a riuscire a fare, trovare il denaro per poterlo fare. Adesso c'è la Pathé, i francesi, insieme a Marco Cohen, che è il produttore, che dovrebbe fare il film di questo film che si chiama appunto La Porta del Cielo, e che è un film ambientato nel 42, quando mio padre si è chiuso nella Basilica di San Paolo aspettando che gli americani liberassero l'Italia dal nazismo, e in quel frangente è nata la storia d'amore tra papà e mamma. Ecco, io vorrei raccontare quella storia lì, perché è una storia d'amore, d'amicizia, di solidarietà. E infine lo spazio per un altro premiato, forse quello che più di tutti rappresenta la capacità di muoversi fra i generi. È un attore esploso in età matura, diciamo così, ormai veleggia quasi verso i 50 anni, stiamo parlando di Marco Giallini, protagonista di ACAB quest'anno nei panni del poliziotto, ma anche protagonista nel film di Verdone, Posti in piedi paradiso, e proprio per questo ha ricevuto il CineChuck d'oro. Ci ho sempre sperato, ma ormai mi ero abituato in qualche modo a essere secondo, terzo, e mi ero anche un po' adagiato su questa linea. Avevo molte meno responsabilità, anche a livello di giornalisti, fotografi, eccetera. Dopo Romanzo Criminale ho cominciato a capire che, quando ho cominciato a vedere magliette, accendini con la mia faccia, ho capito che c'era qualcosa che non andava, o comunque che andava. E poi ecco, il fatto di fare tutte e due poliedricità, come dici tu, insomma mi è sempre piaciuto, perché mi piace vedere, sono un fruitore proprio e osservatore di tutte e due i tipi di cinema da quando ero ragazzino, dato che ho fatto molti noir per quanto possibile qui in Italia, insomma, Almost Blue, L'odore della notte di Caligari, Il romanzo criminale, ACAB, insomma ne ho fatti tanti, molti poliziotti, molti commissari e molti film comici, insomma. Di conseguenza il premio poteva venire per tutti e due, insomma. Marco Giallini, Christian De Sica, Piera De Tassis, CineChuck d'oro assegnato a Riccione. Sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo perché dobbiamo parlare di un video. La rosa purpurea. Eccoci alla parte conclusiva della Rosa Purpurea, come sempre dedicata al cinema da vedere in casa, cominciando dai film in TV. E allora, film TV. Siamo con Giulio San Giorgio, dalla redazione del settimanale di Cinema e Televisione. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Due scelte, come sempre, abbastanza diverse, differenti, eterogenee per le nostre segnalazioni. Cominciamo con il primo appuntamento imminente, domenica 8 luglio, su Rai Movie, Misterioso omicidio a Manhattan. Esatto, su Rai Movie alle 19:10 di domenica, Misterioso omicidio a Manhattan. Woody Allen e Diane Keaton si rincontrano per l'ennesima volta e girano una leggiadra commedia giallo-rosa. Lei pensa che dietro la morte per infarto di una vicina si nasconda un omicidio, lui invece è decisamente perplesso. Indagano e insieme al mistero si agitano questioni di coppia e fantasmi sentimentali di una coppia tipica anche se eccentrica, e in fin dei conti questo film, dietro le risate che sono tantissime, la sostanza nasconde nell'analisi del desiderio tra uomini e donne a un passo dalla senilità. E questo allora, Misterioso omicidio a Manhattan, Manhattan Murder Mystery, il titolo originale del film di Woody Allen, in onda domenica 8 luglio, Rai Movie 19:10. E invece scelta italiana per la seconda nostra segnalazione, scelta di cinema, come si suol dire, di impegno civile, ovvero Marco Tullio Giordana che nel 95 firma un grande come Pasolini nel suo Pasolini Un delitto italiano. Sulla 7 alle 21:10 di lunedì, Pasolini Un delitto italiano. Marco Tullio Giordana con Rugli e Petraglia, due che Pasolini lo conoscevano bene, ricostruisce il processo contro Pino Pelosi, 17enne ragazzo di vita accusato dell'omicidio del poeta. Ed è una ricostruzione minuziosa basata sugli atti processuali e capace da un lato, come il romanzo di una strage, altro titolo pasoliniano, di porre interrogativi su una verità che non si ritiene tale, perché Pelosi non poteva essere l'unico responsabile dell'omicidio, e dall'altro è in grado di coinvolgere come un solido legal thriller. Un buon film che è un doveroso omaggio a un intellettuale fondamentale della nostra storia recente ed è sicuramente anche un forte atto civile di cinema. E allora questo è Pasolini Un delitto italiano, lunedì 9 luglio alle 7:21:10. Grazie a Giulio San Giorgio. Grazie a te Franco, la prossima settimana con le nostre segnalazioni. E dopo Film TV noi andiamo invece alla terza e conclusiva traccia del game di oggi, sentiamo. Vede, vorremmo effettuare un esperimento sugli occhi della ragazza. Come lei probabilmente saprà, spesso l'ultima immagine vista dalla vittima prima di morire resta per parecchie ore impressionata sulla retina. Ora, con un procedimento difficile, ma non impossibile, si può fotografare questa immagine. Questo non è una traccia, questa è una rivelazione. La Rosa Purpurea @radio24.it, se l'avete visto, e magari anche un fatto generazionale, non potete dimenticarlo, questo grandissimo film. Settimana prossima sveleremo di che film si tratta, sveleremo quali sono i nostri ascoltatori che l'hanno vinto, come facciamo adesso con il game di 7 giorni fa. Manuel, senti, non è che avrei lasciato da te la mia agendina? Sì, e infatti ce l'ho proprio qua, c'era il tuo numero e allora ho pensato di chiamarti. Senti, siccome io ci avrei scritto tutti i miei appuntamenti, non è che potrei passare più tardi da te per raggiungerti e riprenderla? Eravamo stati particolarmente cattivi la settimana scorsa, perché la prima traccia lasciava intendere che si trattasse di un grande film con Alberto Sordi. In realtà era la citazione di quel film dentro Borotalco. Ed era Borotalco il film con cui abbiamo giocato. I vincitori sono Marco Limberti di Milano e Riccardo Grande di Roma, che riceveranno il Blu-ray di questo film, del quale ci parla il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio! Allora, l'edizione CG è un video di Borotalco, la versione in alta definizione del film di Carlo Verdone è sicuramente superiore al precedente DVD, è presente qualche grafio, qualche spuntinatura, specie verso la fine del film, l'audio è offerto con una qualità CD, due canali, è quello originale dell'epoca, e come extra è presente un'intervista a Carlo Verdone di circa 20 minuti già presente nella vecchia edizione DVD. E questo allora Borotalco, andiamo alle recensioni perché arriva in alta definizione uno dei film che hanno saputo creare anche una sorta di icona nel loro genere, stiamo parlando del Pranzo di Babette. L'infortuné portese de cette lettre. La sventurata latrice di questa lettera, Madame Babette Hersant, come la mia divina imperatrice, è dovuta fuggire da Parigi. La guerre civile a ferrage d'honneur. La guerra civile ha infuriato nelle nostre strade. Il marito e il figlio di Madame Hersan sono stati fucilati. Elle est échappée de justice. Ella stessa è sfuggita per miracolo dalle mani insanguinate del generale Galifet. Elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Ha perduto tutto quanto possedeva e non osa rimanere in Francia. Verso la fine dell'Ottocento, in un piccolo villaggio danese, due anziane sorelle guidano spiritualmente la comunità anche dopo la morte del padre, pastore protestante. Un giorno alla loro porta bussa Babette, cuoca francese in fuga dalla polizia perché è considerata sovversiva. La donna, che reca con sé una lettera di presentazione da parte di un lontano spasimante di una delle due sorelle, saprà conquistarne la fiducia grazie al talento culinario. Nulla in confronto alla decisione con cui Babette coglierà tutti impreparati dopo aver ricevuto un'ingente somma in denaro. Tratto da un racconto della scrittrice Karen Blixen, la cui vita abbiamo imparato a conoscere nella mia Africa di Pollack, l'opera intimista di Gabriel Axel sa come suscitare molteplici sensazioni tra l'amore per l'arte e quella per il cibo. Da CG un video, l'edizione per ora solo di DVD, che è comunque di ottima qualità video, c'è l'audio italiano e francese monofonico, sono entrambi le originali, quelli dell'epoca, comunque di dignitosa qualità, e come extra abbiamo il trailer. E noi adesso invece passiamo ai fratelli Coen. Anno 2000, arriva al Festival di Cannes, Oh Brother, Where Art Thou, ovvero Fratello, dove sei? Il pastore ha detto che siamo assolti. Da lui, ma non dalla legge. Mi stupisco di te, Pete, ti facevo con più cervello di Delmar. Ma ci sono dei testimoni che ci hanno visto redenti e puri. Non è questo il punto, Delmar. Hai pareggiato i conti col signore, ma lo stato del Mississippi è un po' più pretenzioso. Dovevi venire anche tu, Everett. Non ti faceva un soldo di danno. Almeno ti saresti tolto quella puzza di crema per capelli. Unirmi a voi, ignoranti, in una ridicola superstizione? No, grazie. E poi mi piace l'odore della mia crema. Il buon odore è metà del trucco. Stato del Mississippi, fine anni 30. Everett, Delmar e Pete sono tre galeotti in fuga per un'America rurale disincantata, con l'obiettivo di recuperare un fantomatico bottino milionario di una rapina messa a segno tempo addietro da Everett. Un viaggio in cui incroceranno una variopinta umanità inseguiti dalla polizia e ignari di essere diventati idoli della musica folk. Ispirato all'Odissea di Omero, la bella commedia dei fratelli Coen è ironica e intelligente metafora dell'America moderna, con un cast strepitoso, mirabilmente diretto, ricca di citazioni cinematografiche. Da Universal Home Video, l'edizione Blu-ray di eccellente qualità video, con una resa d'immagine da sala cinema. Anche l'audio si difende con una traccia DTS per l'italiano e DTS ad alta risoluzione inglese, quest'ultima assolutamente da provare per la differente atmosfera innescata dai dialoghi in slang. Non sono presenti extra, ma ricordo che l'edizione americana beneficia di un breve making off e il confronto storyboard con le sequenze realizzate. E allora grazie a Claudio Poffi per averci raccontato tutte le novità in un video. Qui, come sentite dalla base, si chiude la nostra ora di cinema. Grazie a Laura Faggine che ci ha aiutato in redazione, grazie a Carmelo Rauricella, sempre impeccabile in regia. Appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisti.